stazione di fammelo tu rubare giù, e non è mio me. Se non vale, mica te lo devi comprare tu, no, ci confesso, boh. Non vale. Ah, ma non può fare, ma cosa è tuo, se me la fotti. Vuole 250 euro, basta. Tu te sei inchiviati, non vale, no, non vale. Vuole 250 euro. Senta di tu, ma mangiamo lì domanda, perciò. Qua c'è, ce n'è uno, 3,25, compra subito, e un altro, 305 euro, compra subito. Vediamo un po'. Aspetta. Usato, perché non è nuovo. Neanche modificato. Perciò, vedi un po'. Credo che no. Ma questo è nuovo. No, è nuovo, è nuovo. Vabbè, comunque. È normale. 40 canali. Luca, mettiti a zero di watt che voglio avere una cosa. Vai, aspetta. No, sono a zero di watt adesso. Sono 7 vai, da 7 a 9. Adesso prima di abbassarli eri a manetta e a 9, così è. Guarda. 25 watt, va. 9 watt, ma 9 watt a far culo. 9 di Santiago arriva. Non hai aperto neanche da LC, perché se io glielo apro io non ho conosciuta. Però se si apre da LC e diventa un microfono mio, è una bomba sta cosa. Io volevo fare una cosa, parlate un attimino, vediamo un po' se prende colpi. Non prende colpi quello, no, già, io lo conosco già, non ne prende colpi. I colpi li prende solo se sei vicino vicino, se no colpi non ne prende. Mi la goita allora. Prende colpi, te lo sto dicendo. Ah, vabbè. Però ti garantisco che ci sono baracchini che costano 80 euro e prende ancora meno colpi di quello, non perché l'81 è una bella radio, però ci sono barattini da 80 euro, rimane 400 canali e arrivano anche a 20 watt, questo te lo posso garantire, e colpi non ne prendono. E poi ognuno ha le sue idee, io per esempio lui, io non le spenderei mai 250 euro per quell'apparecchio. Il prezzo è così, tu conta 300 euro, anzi 325 euro. Aspetta, ah, spedizione gratis. Poi c'è questo qua nel vuole 305 con più 10 euro. 315 euro. Poi c'è anche la spedizione, capito? Vabbè, comunque, a me. Chi lo vuole è quello il prezzo. Se no. Non ci posso fare nulla. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po'. Se riesco, vedo il mio, me lo prendo io questo qua. Cioè, come dire, il mio cazzarolo dopo dare 100 euro. Non lo so, ma di fatta. Tu, Natalizio, ti ricordi me, ma mi hai ridato il presidente Jackson, 150 euro. Eppure non si rivaria. Eh no, qui si rivaria. Normalmente il Midland, no? Differenza del Midland preferisco questo qua, io. A parte quanto differenti i canali, che se lo mangia. Poi il VAT se lo mangia. Che sapete, Natalia, è meglio sto qua, no, quello che mi ha dato tu. Perciò, vedi un po', è che quello là, quello che mi hai dato tu, non aveva quel valore lì, però io ti ho giù pagato, non ti hai voluto tu. Mi sono fatto i crediti, no, ma, boom, ma, anzi, mettere quelli di 200, se ti ricordi bene. Però questo, al presidente Jackson, si rubò in busciacca, 100.000 voci. Non sono molto sicuro, no. Guarda che il Jackson va bene, il Jackson se lo porta al massimo da 25 watt come quello, Ti dico che se tu appunto a 25 watt lo crepi. Poi, non lo so, vedi tu, cazzo, io c'ho una 48 e non riesco a vendere, cazzo, 150 euro, fatelo conto. Tuo? Il mio, Quello modificato? No, quello modificato, meno di 400 non lo ho. Vedi, ci tenevo sempre lì. E questo è la 48, sta che è questo baracchino? Un amico mio, ma è nuovo questo baracchino tuo? È nuovo, il fontanino è nuovo, vogliono riverniciarti un po' i coperchietti. C'è una macchina fino all'altro giorno, e niente, è il tipo vecchio, proprio il primo, non è quello che c'ha i pulsantini illuminati attorno, c'ha solo questo, luce di smitter, e la luce dove trasmissione canali, proprio del primo tipo. Io chiamo un amico adesso, guarda, perché sto baracchino per sono di 40 ora. Adesso mi propongo il 2001. Questo 1000 che hai tu, 150 euro. Io ho dato una 68. Come il 48 uguale. Ma nuovo di pacca. Se no te l'ho venduto io, 80 euro. Ma nuovo, baro. Stampa su originale, microfono su originale. Fiammante, 80 euro. Sì, ma infatti, Luca, i prezzi li fai tu, capito? A me qua il barattino non mi chiede pane, quindi non lo do, non ti preoccupare. 100 euro me li hanno già offerti, non lo do per 100 euro, capito? Perché questi poi non li troverai mai più. Questi qua non li trovi più. Adesso li stanno facendo tutti come il BSX, tutto a chip. Che, sì, va bene a fare modifiche, per quello che vuoi, però come questi non ve ne so in giro. Ve ne so pochi e chi ce li hanno, lui ti dico che se li stanno anche tenendo. Giustamente, chi lo vuole prendere, se sta all'accordo di chi compra, va bene. Io per esempio questo per 100 euro non lo do. E quello che ho modificato, meno di 400, non lo do, perché ne ho speso 350 di solo in modifiche. Avanti, doppio rumore. Cava, cava, io mi ritiro perché quel tatuaggio non lo posso fare. Quindi non mi telefonare, intanto è troppo, dai, per me. Poi se lo trova, meglio per lui. Cava, cava. Andale. Io, Massimiliano, come ti sta arrivando dalla BTV? Adesso mi passa bene. Vedi? Questo secondo me va, sabato lo do. Tra passaggio già. Vado a vedere. E poi c'è Maso, perché? Maso quanto? Santiago 5 mi sta arrivando qua. Non lo so. E dove sia la Montevideo? Di qua di strano, Di fronte alla Esso, dai, in quel parcheggio. Un attimo, cavallo. Magari è zona negativa per me quella già. Santiago 5 mi sta arrivando. E adesso? Dove? Guarda. Sempre uguale. Non ha cambiato una? No, da parte mia no, sempre 5. Luca, a te come ti sta arrivando? Passaggio. Buona giornata in fondo. 9:20 sei qua. E probabilmente perché c'è il palazzo, lasci vedere che mi tappa. E se sei lì dove c'è, magari per me è un po' negativo, magari ti sposti di 5 metri e mi arrivi 9. Ci sono i palazzi, sono sotto dove c'è il bar, lì, al chilometro. Già lo conosco quella prima lì, magari appena ti esci da lì mi arrivi più forte. Sera ti ho sentito da Alghero, cazzo, quando tu eri a Porto Torres. Ero, cazzo, dentro la città di Alghero che tu ti stavi parcheggiando a Porto Torres. E infatti, mi sembra strano che... Adesso ti sei spostato? Mi sto muovendo, dai, adesso. Vedi, adesso sei Santiago 9, 5. Allora, sono proprio i palazzi che ti tappano. Ecco, questo passaggio 9, 5, pieno pieno. Ti ho sentito, c'era un notarino, vabbè, sentivo proprio basso basso a Gianni Capridue, e poi ti ho sentito quando stavi parcheggiando lì a Cosa, là, a lavoro, io stavo quasi uscendo dal nero. Basso basso senza segnale, però in radio ti ho ascoltato. Va bene, no, interessante che fosse quello, perché ha detto, se no lo stanno male apparecchio. No, già, magari ero troppo coperto, capito, il segnale era quello lì, adesso stiamo andando bene. Chiariglia. Vai, Natalino. Adesso sto guardando il romanzo di me. Non so, ma c'è anche il falchetto, non sbaglio. Dopo tanto, ben entrato. Scusa, fa che io la verità non mi ricordavo, scusami, ma che ci è venuto in mente, va. No, non c'è problema, non c'è problema. E allora, tutto a posto? Bene, tutto a posto, niente d'ordine. Anda bene, meda. Anda bene, meda. Ok, dai, io faccio un attimo di QRX che vado a prendere un po' qualche pacchetto di sigarette. Non fumare a tutti i dindi. Potrei anche farlo, perché no? E tu, come stai andando con il fumo? Io non sto più fumando. Tu faccio via? Io non sto più fumando io. Mi ha dato voglia. Perché ho già, non bisogna smettere dalla bocca di fumare, bisogna smettere dalla testa. Sì, già lo so, ci ho già provato tante volte dalla testa. Ho durato anche una volta, ho durato quasi 3 anni che ho fumato, e poi ho ripreso. Una volta 8 mesi, una volta 3 anni, infatti mi hanno detto che sono stato proprio imbecille. Capo, anch'io sono stato, io sono stato 2 anni senza toccarmi neanche uno. Però ti dico una cosa già, che smettere per un fumatore, per smettere di fumare è molto difficile. Nel senso, io ogni tanto a me viene un raffino, bisogna una sigaretta per fumarmene 10 tutti assieme, perché ti viene la voglia di fumarla, però se decidi di fare una cosa è quella, boh, non deve essere più forte la sigaretta di te. E tu lo sai quante volte sono passato davanti al tabacchino e dicevo mi fermo, non mi fermo, poi vincevo sempre io, un giorno ho vinto. Vedi, anche io ci sono cascato così, mi dice vai fammi fare 2 tiri, fammi fare 2 tiri, e dall'indomani mi ha comprato un pacchetto, di nuovo fumando, ecco, no, ma già qua, catarro, io sto fumando un bel, quindi no, beh, adesso mi sento molto più libero, come polmoni e collo, adesso inizio a fare un po' di attività, se no qui, cazzo, fra poco bisogna buttare il ramello per uscire dalla porta. Perché tu stai facendo in grazia? Un paio di chili li ho presi, Perdevo io in quello. Un mese ho preso 2 chili. Beh, ma magari ti regoli anche col mangiare, solo che tu mi dai, non fumo, non mangio, quello... Va bene, fai quello che ti ho detto, riprenderò a fare un po' di attività, adesso magari un po' di corsa a piedi, per fare un po' di fiato. Allora, oggi siamo già giovato, cazzo che vuoi prendere un maniale, d'ora, blu. Prendiamo una pescata, lasciami via qualche giorno. Capo, adesso però mi iniziate un po' buono, perché avanti un po' di freddo. Cazzo, oggi guarda, anche ero sul tetto di una casa, non si poteva stare dal freddo. Vabbè, là, io sono arrivato a casa, mi sono tutti gli anni per andare a casa. Via, via, a dopo, là. Avanti, la stai. Non mi vai che ci prima di chi stava a fare il bene. Provato nel 2001? Lui era provato. Chissà cosa ha scritto Gianni, perché Gianni l'ha provato 273. Oh, ha scritto, non ho sentito cosa ha detto. Revenditori, boh, non so cosa ci ha messo. Sì, vabbè, non me l'ha più importato a me. Mi faccio un babbaglia. E appunto, bagliisso. Appunto per quello, che poi per sempre per oltre le 300 euro già si trovano anche cose migliori, così è Natalia. E mi manda a me, ma mi ha come più di sapere che io, aspetta Natalia, no, come estetica non è che sia tutta questa grande cosa, però diciamo che puoi andare da altre parti, limitato, per il baracchino che diciamo che andrebbe anche bene, nel senso che non prende colpi, è sempre un baracchino, mi dirai, però diciamo non è male, là, non è male, l'8001 è una bella radio, non è illuminata davanti, ha chiuso questo frequenzimetro che alla fine è come un Pluto, il gemello del Pluto. E infatti, sempre un baracchino, capito? No, per vedere, infatti, capito, se io sono così, loro vengo così su eBay, che sono maggiorati i prezzi, quindi 150 euro gli vuoi fare. No, quello è stato già frugato, senza garanzia, senza nulla, vabbè, poi a me non mi interessa, la verità, poi chi vuole che se lo prenda per quella cifra, a me non mi fa né caldo né freddo. 150 euro, ma modificato con l'eco, come il suo, così, con il VAT, regolazione del VAT, la viadotto, e io non me l'ho preso. Infatti, già sono 150 euro, io non me ne non ho ripreso, perché con 300 euro già lo so, non ne prendo io. Guarda un attimo, che devo andare a tirare una cosa in cucina. Vedi, voilà, anche io ne approfitto a fare un po' di bianco, dai, ci sentiamo dopo. Sono i vati questi, eh. fare, ma siamo vicino. Sempre 9,25 e più, sì, quasi 9,30, quindi non ha cambiato nulla, ma siamo anche vicini e probabilmente è quello lì l'unica che non fa cambiare. Benissimo, aspetta un attimo, mi incontro la fettina già. E comunque sono già, allora. Luca! Attento Luca! Hola, hola! Anch'io, come sono sceso dal camion ha cominciato a le pulsazioni nella schiena, ma teniamocelo, dai, c'è gente che ha peggio. Non c'è nessuno oggi in circolazione. Ah, c'è un po' di gente, però non so cosa sono, dove sono andati, se sono andati a mangiare. Vediamo un po', gli 8.25 sono, va bene, dai, è ancora accettabile come orario. Ma sei in postazione fissa già, qui stai uscendo a manettone. In postazione fissa sono. Il radio come va? Il radio è a dir poco da incorniciare. E di Santiago, se avessi avuto il display lungo altri 3-4 cm magari mi bastavano. Sì, va bene, bella, chiara, limpida, guarda, bella, veramente. Quella roba è sempre qui, te l'ho detto. Kappa, e poi ne parliamo, se riusciamo a organizzare un incontro sabato sera, e vediamo di organizzarci, Gianni. Ok. Ascolta, ma che cos'è, 12? Quindi per la macchina potrebbe andar bene. Sì, lusso. Anche perché io stamattina ho avuto modo, anche involontariamente, di fare una prova, no? Stamattina ho sentito Falchetto alle 5:30, come stavo uscendo da stabilimento, e dopo 10 minuti siamo riusciti ad agganciare Gigi Vulcano. E quindi ci abbiamo tirato sino a Campomela. Dopodiché io ho proseguito per Cagliari e lui stava scendendo ad Olbia. Però lui, quando mi ha di nuovo chiamato, era al bivio di Arbara e io ero nei pressi, non so se è presente, nella discesa di Sidigo già. E cazzo. Eppure ci siamo sentiti, quanto sarà in linea d'aria di chilometri, grosso modo? 6-7 chilometri in linea d'aria ci saranno? Sì, forse anche qualcosa di più. E quindi vedi, in barra pesante, cioè io non è che pretendo di uscire ad esempio da Cagliari a qui in barra pesante, perché sarebbe eccessivo, dai, ma anche se riesco a beccare il segnale, anche da Giave mi andrebbe bene. Hai voglia? Infatti, poi già ne discutiamo. Certo, anche perché se quell'apparino lì mi tratti bene io me lo metto in macchina come ce l'hai tu. Poi per la barra vediamo, tempo ce n'è, dai, perché cioè troppe cose una sull'altra, guai. Kappa. E adesso vediamo, non c'è problema. Non so come sono, me lo dai che sto scrivendo una cosa. Vai tranquillo, ti do anche 10 minuti, non c'è problema, fai con comodo Gianni. Attenzione, 21, c'è rimasto qualcuno? Avanti Massimiliano, buonasera Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato anche a te. Grazie anche a te Massimiliano, ben ascoltato. Ciao Massimiliano. Per via. bisogna aumentare. K è aumentato. E la radio è sempre buona? Sì, la radio è sempre buona. Prova un attimino così a chiudere poco il mitigate. Capito. nel senso che questo è come se ne abbia due valvoline da 190 watt va questo KK. E quindi la deve ricomprare. Ma lo sai che oggi stiamo parlando così con mio cugino e lui ne ha uno uguale, e domani mattina me la lavavo, anzi addirittura mi ha detto se non mi interessa di tutto quanto te lo regalo. No, non mi interessa delle vesti, mi interessa la valvola. Ne ha una di scorta, ed è la 519, capito? E poi con la 519 giustamente l'ha più matta la 509. Chi, Tore? No, non Tore, un altro mio cugino, è il figlio di questo impresario, diciamo, dove sto lavorando adesso. Anche se ancora devo, non so, qui vedo dei passi diversi da quello che uso io in barra pesante, anche leggendo le istruzioni non è che ne capisca più di tanto, perché qui c'è, presumo che queste siano memorie M1 sino a M4, poi c'è questo VW che non riesco a capire proprio cosa sia. Giuseppe, avanti. Dammi il controllo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Fai un altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. 9,25 qua, e radio 4. Ok, ti ringrazio, a dopo, Bianco. Vai tranquillo, di niente. Cioè, la cortesia, chi era questo qua? Guarda, io sinceramente non è che abbia capito bene chi fosse l'amico, e tu sei riuscito a capire? Nel senso che a te ti arriva 9,25 qua senza segnale, l'ho sentito perché sono in cuffia, se no non avrei neanche sentito. Comunque quando si entra, nel senso, sì, si saluta giustamente, si dice anche chi è, se lo vuole dire pure pazienza. Certo, su quello hai perfettamente ragione Massimiliano, anche perché mi ha preso un attimino alla sprovvista, infatti gli ho chiesto di nuovo, fammi un passaggio, perché sai, mi ha preso un attimino così alle spalle. Ti dico la verità, alla voce non sono riuscito a capire chi fosse Massimiliano. A Giuseppe. Vedi, è già superiore a quello come microfonia. Ah, Giuseppe, questo qua è il baracchino che ti dicevo, sul 2001, la vitrata. Ascolta lui, ma sei tu poco fa che mi hai chiesto il passaggio? Sì, sto salutando io, sì. Cappa di positivo, vai. E mi stavi dicendo che questo è il 2001? Sì, ho lanciato i canali. Ah, ho capito, quello che ha tanti canali è quello che è caro. Quello che ha le bande laterali, insomma. Quel tanto lì. Io non lo voglio dare. Con questo. Domani ci sa come faceva il cavetto. Io ho fatto un amico stasera, ma mi fa sapere domani. E sicuramente sono quelle per il cambio. È omologato, però c'ha tanti canali. Cappa Luca, però ti devo dire una cosa, proprio in sincerità assoluta. Ti sento di cose di Santiago sei una bomba, però di radio sei molto basso. Però vabbè, dove te vuole aperto di nellicine io, Giuseppe? Aspetta, conmigo vediamo un po', dai, un attimo, ci metto 2 secondi a capo. Ok Luca, tranquillo. Avanti, chi stava parlando poco fa? Ecco. Io ho chiesto, Giuseppe, il 48 era quello che sta viaggiando? Sì, è registrato il greco innanzitutto e risponde subito a Massimiliano. È il 48 plus multi, Massimiliano. Ma quello che ho visto io è un Zimbarra, Bergiante? No, negativo, quello che ho preso ultimamente, Massimiliano. Ah, positivo, quello dei due, non lo sapevo questo. Ecco, questo qua è il mio, Giuseppe, meglio mi senti. Beh, adesso sei qui a casa, Luca. Tra l'altro pure Alberto di LC. Quando si apre, allora, la musica cambia. Andare, no. Andare, un attimino. Ecco qua, vediamo qua. Ok, dobbiamo spostare. Io sto per provarlo. Perché la tema similare, è cambiato qualcosa. Superiore. Beh, non c'è paragone, Luca. Devi contare che aspetta. Che... No, dai. Ci vuole cuffie. Devi capire che anche questo qua è aumentato di... aspetta. Di ALC Massimiliano. Se questo qua lo porto come era prima non spinge. Cioè praticamente va come l'8001. Scusate, riprendo un attimino io per far entrare il breco che ho registrato poco fa. Avanti il breco. Breco, me lo fa un controllo per piacere? Avanti. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Santiago 7 e Radio 4. Chi sei se non sono indiscreto? No, carburo. Su carburo. Una vecchia motivazione. Va bene. Se vuoi fare un altro passaggio vediamo un pochino, dai, avanti. Ecco, 1-2-3-4, 1-2-3-4. È buono, questo passaggio è 9-25 e Radio 4, dai, sei salito in questo passaggio qui, dai. E avanti il break che sono 2 secondi fa. Carissimo Capri 2, ben sentito, cordialità, niente, tutto quello che vuoi, è sempre un piacere sentirti Capri 2. Niente, qui siamo in compagnia di Gianni Doppiorume, di Luca e di Massimiliano Bulldozer e adesso si è aggiunto un amico, non mi ricordo adesso in questo momento il nome dell'amico. Comunque avanti Gianni per i saluti a Capri 2 e poi fai girare tu, dai. E Gianni a quanto pare non c'è, riprendi tu Massimiliano e fai girare. Thank you. che tu ascolti a me, capito? Buonasera, ben ascoltato, Capri 2. Diciamo che va abbastanza bene, Capri 2, dai, e mi stai arrivando qui a casa bene e ne sono contento, dai, hai sistemato qualcosina, sì. Ok, il discorso lo fa questa sera, in quanto la GPC, il tipo si è capito praticamente ha preso la parecchia, non è fatto nulla perché non era in grado, beh, l'ho dovuto mettere in mano io, me l'ho fatto io di mano mia, perché fare qualcosa, capito? L'ho messo a posto perché era impossibile trasmettere con le sapori partiti, un sapore non è più colpa sua, non me lo devo fare perché non ha una roba buttata in mano a zero. Poi c'è un altro, quello che ha come assimilato, quello lo devo spedire perché quello lì ci vuole con calma, gli ho detto, c'ho un amico che è vicino alla Zeta Giri, infatti Zeta Giri ha altri schemi. Glielo spedisco, ha detto che devo che ne cambia di zucco, li resta un altro a poco, giusto per aprire. Non tanto mi interessava che mi modulare con Puglio, altrimenti io liscio non riesco a muovere un passo da qui. Però la garantella, come stavate dicendo, la comanda tutto, la dobbiamo alzare appena è possibile. Charlie, a quando scala, quando Charlie, che vitamine c'hai, Sergio? Piccolo, per quello che io ti ricevevo bene, però tu non mi ascoltavi. Ma piano piano te lo rimetti a posto, Capri-Lu. Io più di quello non potevo fare, là. Poi piano piano, quando ci avrà il tempo, te lo metti a posto, vai tranquillo che dopo quello lì, una volta che te lo metti sotto, già è una bella bestiolina, per quello lo, dovresti arrivare molto più forte qua con quello lì, non c'è problema. Ok, dai, io vi saluto per il momento tutti cordialmente, che qua è pronto a cenare, se coincide riprendo dopo, se ci siete ancora, dai, se no vi saluto tutti cordialmente, ritenetevi tutti salutati, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ciao, è stato un piacere, quando vuoi, se vi senti, entra, che è stato un piacere, speriamo di rivederci ancora, hai capito, dobbiamo fare una riunione, io sabato non ero disponibile, però faremo qualche altra cosa, adesso stavo lì che non rimetta le giornate anche più grandi, e così avremo modo anche di incontrarci di nuovo in verticale. Giuseppe, come ti sto arrivando l'interrogativo? Ma Capri-Lu, qui stai arrivando a Svalzi da Santiago 6 a Santiago 9 e la radio diciamo che è discreta, ti sento bene, dai, dimmi come ti sto arrivando io nelle tue coordinate, Capri-Lu? Ok, mi stai arrivando Santiago, prima di Santiago in più, non so cosa sia successo, non so cosa è successo, di come io mi sono messo tutti quanti in cambi a fare stasera qui, c'era un po' di casino, c'era, e mi sono messo a mettere in ordine i cambi, io tutti quanti li controllavo, il stretto sui i corsi del PL, la rete PL con il capo MG58, e quelli ogni tanto tendono ad allentarsi, non li risalgo perché poi io è un macello. Capri-Lu, dai, va bene così, che sia la volta buona che riusciamo finalmente a dialogare tutti quanti come si deve, dai, e sperando sempre, sempre in bene, se no io te l'ho detto e cominciamo a spianare quelle montagne che ci sono lì da Muro Sacco e poi vediamo un pochino. Ok, ma se vediamo il salvato distone, lo chiamo e iniziamo a demolire la montagna Capri-Lu, è entrato un attimino Gianni, sta andando a mangiare, Capri-Lu. Yeah. due, in pratica è anche un bello schiaffo morale, e perché e loro sono lì anche per darci un'assistenza, mi hai capito? Anche perché io dico questo, se il danno che può succedere in un apparecchio poi se lo deve riparare automaticamente il cliente, allora non ci sta più bene. Ma lo sai cosa è? Lui Giuseppe, io lo conosco una pizza, ecco perché non ci ho voluto. Non sono stato al suo gioco, hai capito? Perché lo conosco di più di 30 anni, lo conosco, anche Gianni lo conosce, però Gianni, detto Gianni che ti fa così o a me non me ne fa invece, ha fatto come ha detto Gianni lo più. In poche parole, ho lasciato prendere perché lo conosco, che non vale la pena, per cento lo fiero di andare a farmi, diciamo, conoscere lì, a rompere, diciamo, la conoscenza che c'è su tutti questi anni, che sono tutti questi anni. Però, e come si chiama è questo? Se tu vendi un prodotto che non va bene, entro una settimana mi restituisci i soldi o me lo cambi con un prodotto preciso. Invece niente, l'ha fatta andare qui e là. Allora, a parte questo, lui è il tuo visto, a Sassa di lui se prende questi prodotti, si è appoggiato di avere anche un'assistenza tecnica, come ce l'hanno con la computer visore, si scassa, ecco, vai lì, e il tizio c'è il tecnico, lui non dirà niente, capito? Lui prende così, come va a fare, lui non va bene, perché oltre a questa cosa mia, io ho visto altri clienti lamentandosi, su questo sono perfettamente d'accordo con te Gianni, anche perché dovendo mettere un punto d'assistenza sicuramente dovrà mettere altra gente, però io dico questo, se tu mi hai venduto il prodotto, ok, il prodotto anche se non me lo vuoi garantire al 100%, il prodotto se difetta me lo devi ritirare, se non sei in condizione, oppure se non sono in condizione di ripararlo perché magari hanno scarsità in magazzino di pezzi, di valvole, quello che vuoi, ma almeno mettimi in condizione di potermene darmene un altro alla pari di quello che ti ho preso, perché il cliente per portarlo dentro un negozio ci vogliono mesi, Gianni, per perderlo basta anche una parola sbagliata, come è successo anche a me, hai capito? Sì, ma non è così come dice lui, no Giuseppe, il prodotto lui lo ha fatto rimpiazzare perché non ne ha, perché ha detto non è il suo, non le fanno, non è facile trattare, io te l'ho detto anche io, ho detto fa tutti quanti tipi di anni di cose, lui niente, non è in grado proprio di fare nulla, capito? E a vendere poi se si guarda il prodotto deve farmi le scuse, perché ha avuto problemi anche l'altra volta con mio padre. arrivati a un certo punto i circuiti sabbati sono tutto in un apparecchio, sono la vita. E comunque se ti dovesse servire della trierina, io ne ho trovato forse al tipo, ne è rimasto uno o due barattolini addirittura, perché mi ha detto che non ne ordina più, non so se sei pratico di Sassari, ed è la ferramenta che c'è dietro la coppe di del latte dolce. Si deve fare in 100 per risolvere. risolvergli il problema, perché è troppo comodo prendere i soldini così per venderti una cosa, venderti 30 metri di cavo oppure venderti un'antenna, così ci siamo buoni tutti. Attento Domenico, Domenico, se copi Falchetto, cambio. Negativo. Salutoni Capri 2. Capri 2 se deve essere assentato momentaneamente qualche. Io ho sentito un break e direi di rilanciarlo. Avanti il break sul 21. Buonasera a te K2, tutto ok, io ti sento forte e chiaro, ti rilancio Falchetto per i saluti. Capa, saluti anche a Capri 2, bacino stasera, non riesco proprio a tirarti fuori. Capri 2, ma Capri 2, K2. Scusate, ma niente, non lo sento, no, Giuseppe, non lo sento a K2. E niente, Falchetto ricambia i saluti, mi ha detto che ti sta tirando fuori a malapena, cambio. Gianni si è assentato perché sta cenando Capadu. Non ha niente di strano che fra un 10 minuti sia di nuovo qui in modulazione. È stato un bip. Grazie a te Capadu. A volte Falchetto se riesci a recuperare l'amico aiutami a dire. Domenico? Avanti Falchetto. Positivo. Attento Domenico, se mi vai copiando. Attento Domenico. Attento Domenico, la salita è saccata, se copi Falchetto cambio. Ma non si intende, no, il mio bip è ingresso. Buonasera a Vela 1, buonasera Vela 1, in compagnia di Giuseppe Tornado e Falchetto e K2, cambio. Buonasera, saluto il circolare a tutti, dai. Beh, io faccio un ripresso di chiamata, bip bip. Se devo entrare questo o questo. Perché quando entro prepotente, mi dico, ecco, sempre un attore sempre prepotente. Ma tu metti di ballo, io mi metto a entrare prepotentemente col fisichetto che ho, non mi fa, ma... Ma io voglio dire questo, Falchetto l'hanno riconosciuto poco fa, ha fatto, c'è stato il bip, e lui sa di chi è il bip, vero Falchetto? È positivo, buonasera Pierpaolo. Buonasera, buonasera. Palinometro, sì, io ho fatto un po' di ascolto prima dell'ingresso. Capri non ho sentito che si sia sentato, Gianni sì. Nulla. Gabagabe. Come siete Giuseppe lì stasera? Di positivo Capri 2, tu riesci a tirarmi fuori ancora? Ma tu mi avevi benissimo, salto per Paolo comunque, niente, a Falchetto io là, mi arriva Santiago 3, però non c'è l'aria, come mai? Falchetto? Dimmi. Comunicazione da Capri 2, Santiago 3 però non c'è radio, dice, come mai? Non saprei cosa dirle, non lo so, non lo so. Capri 2, Falchetto dice che non sa cosa dire perché a me qui arriva 9.25 di Santiago e 5.09 di radio, e come anche Vela 1 arriva 9.25 e anche lui 5 di radio. Avanti Capri 2. Non riesco a capire cosa sia accaduto. in mezzo al QRM. Oggi ti sento in mezzo al QRM, fammi da ponte Giuseppe se mi copia. E capa Marchetto, capri 2, riesci no, a copiare Marchetto? No, perché di radio mi ha detto lo senti quasi a zero, vero? Sicuramente proprio la questione delle QRM che sicuramente non fa entrare a Falchetto. Falchetto, prova a fare di nuovo un giro per Gianni Capri 2, vediamo un pochino se riusciamo a risolvere questa situazione. Cappa, attento Gianni Capri 2, se vai copiando Falchetto, cambio. Confermo. semi coppia. Ok, adesso comunque ti ho ascoltato quanti adesso, adesso ti ricevo, hai capito, tu c'è qualche problema nelle gole, in qualche cosa, io ho ascoltato quello che hai detto di rilanciare, a vedere se ti copiava. Attenzione Domenico, ho parlato all'amico Franchetto da Sassari, l'hai copiato? Ok, comunque ha detto di salutarti, sia lui sia l'amico Pierpaolo, Giuseppe Iterrichisi che poco fa mi sta battendo. Rimetto il cambio a Radio Vela, guardi Radio Vela. Brecchisi, brecchisi, brecchisi. Oh, ti prego, allora. Yeah, ciao Pierpaolo, ciao KP2 nuovamente, ciao Falchetto. Buonasera anche a Domenico se mi ascolta, dai, Domenico, mi ascolti. Sento Domenico, la Gianni doppio un disastro che ti ha fatto chiamata, lo ascolti? La risposta. Stavo parlando. Ok Domenico, comunque io ti ascolto ancora, stavo volando già. Ti ascolto ancora Domenico, finché mi ascolti tu chiamami, rilanciami, io ti risponderò. Hai detto già che non ti ascolta, lui si trova passato, diciamo, quella zona. Fatti vicino a Chirillani. Vabbè. Cava, comunque salutiamo cordialmente lo stesso, va. Ok, come certo che lui ti saluta, Ti saluta, ti augura buon tutto. Io adesso faccio girare e poi ti faccio chiamata di nuovo. Fatti in Radio Vera. Il passaggio, non so se lo dobbiamo appena acceso ancora, forse ti ha scaldato un po'. Adesso tiro radio 5 e forse c'ha ragione Capidua che poco fa ci avevi tenuto un passo di modulazione, perché adesso come hai fatto quel passaggio ti ascolto radio 5. Positivo, sì, avevo appena acceso Pierpa, forse anche per quello, perché c'era l'apparato freddo e stavo uscendo basso per quello. Ok, dai, sono contento che si sia ripreso un po', dai. A tutti, se mi state ascoltando, sto bastardo, mi sta comprendo tutti, trovo importante, non so se mi copiate. Paolo, non preoccuparti, sei tu che copri la portante, non metterti problemi. Guarda dove se passo io per qua. È arrivato il portantista. Sodia, ma è una cosa non si crede, guarda. Pierpa. Vela 1, mi copri? Pierpa, andiamo nel canale sotto, dai. Dice 10 quant'è di solito, ma è grandissimo, ma scardo, cazzo. Andiamo dove eravamo ieri, dai Gianni, Pierpa. Dai di crimine, le vostre festeggiamenti, mo come te l'ho detto, lo stereo a tutto volume. Ci siete? Ok, ya. Sempre il guaccio in mezzo alle valle. Ah, io passiamo 19 alfa, dai. Beh, perché io il 19 alfa non ce l'ho e il 45 può andarmene lo stesso. 45 va bene lo stesso per me. Chi conferma Gianni a Vela? Ma io si ferma, se va bene il 45 cambio. Ma tanto ci scegli. Proviamo? Siete passati su 45? Copri 2! Dimmi! 45! Ok, aspetta il mio apparato! Scappa, canale 45! Ce l'hanno fatta. che partisce tra Isa, non loro, solo tra Isa, è una cosa che non li riguarda loro. Infatti quando tu entri a Cagliari le vie dicono c'è il trazionista che sta dicendo come per dire che sia un pezzo di merda, né? Sempre stato così. Poi dai Maggio Primoschi da Vincenzo che se la arriva a Cagliari, no, Oristana però mi ha chiamato per sapere quanti voti ci sono. Bastano. Comprare subito 2,98, se no puoi fare una proposta. Ma la proposta ce la fai tu? Eh beh, se te l'accetta lui sì. Solo che io gli ho mandato l'email perché dice dal 99 al 2004, quello è un 2005, ma è per il 2005, secondo me la macchina è un 2004 e non ti costa a febbraio. Perché è il 2005, poi lo fa vedere ed è già l'altro, quello che cambia completamente, capito? L'ultimo, quello che c'entra in vita. Sì, sì. Addirittura lo stesso, c'è un'inserzione per quello lì, se l'ultimo sembra il supplente, però il trasporto è gratis. Qua sono 25 euro a barra. Quanti euro di spedizione? Capo, infatti voglio vedere se poi fa stesso gratis o meno, boh. Adesso vediamo se mi risponde, se vanno bene anche per la versione limite del 2005, se fa la fattura così, sino alle 5 non mi aveva risposto, abbiamo andato stamattina, solo che è uno che ha un ricambi di tuning, capito, già sembra 200 prodotti in vendita e c'ha 1000 feedback positivi. 1100. Stamattina erano le poste per te? Oh no. No, a parte sempre lei che ti faceva il bonifico, lei che ti faceva il numero di carta mia, adesso sei altro, guarda che io ce l'ho pienata con la carta di caricabile per fare questo sistema che c'è qualche problema, la cifra è assicurata. Ah, ho capito, quindi non ti posso dare il numero di carta mia, no. Se ti faccio un bonifico, tanto c'è il streaming. Il cazzo, ho capito, non ci vuole andare alla posta qui. Stamattina era lì. In ogni caso io devo andare almeno a recuperare un bollettino. Comunque sono 200, va bene, sono 250, 500, se no magari sono, non so, 80, l'una, capito? Comunque non ci arriva a 1000. Ecco, ho finito di mangiarmi il fegato. Stavi dicendo? Perché? Perché hai finito di mangiarti il fegato? Ho detto che non ci arriva a 1000, sono intorno alle 300. E infatti avevo fatto il calcolo tra noi